Dunque, dicevo, l'ho studiata a scuola, l'ho letta in greco, è sicuramente un personaggio che a scuola ho affrontato, ma nonostante la mia insegnante di latino e greco fosse una donna sicuramente all'avanguardia per l'epoca, stiamo parlando di 45 anni fa, era una donna all'avanguardia nel senso che non ci faceva studiare sui libri, lei spiegava, aveva una maniera di insegnare molto universitaria, lei spiegava, noi prendevamo appunti, avevamo i nostri quaderni e ci faceva fare le tesine. Quindi era sicuramente brava rispetto alle altre insegnanti, però era una trentina, quindi Controriforma, Concilio di Trento, super cattolica, quindi ci ha trasmesso un'immagine di Clitennestra canonica, cioè la fedifraga assassina del marito e da lì non ci si schiodava. Poi me ne sono dimenticata di questa figura e un paio di anni fa sono incappata in quel filmato che vi ho condiviso, il lato unico di Alma Daddario, Clitennestra al processo, e lì mi si è svegliata una qualche memoria antica, perché quella versione teatrale l'ho sentita tanto tanto forte dentro di me. E ho sentito il desiderio di approfondire la figura di Clitennestra, era come se mi stesse chiamando, ma avevo tante altre cose in sospeso in coda, per cui ho continuato a passarle in coda, fino a che adesso si è verificato che, come vi raccontavo, 10 giorni fa, passando davanti alla vetrina di una cartoleria, neanche di una libreria, nel paesino dove alloggio, vivo quando sono in Italia. Vedo questo libro, questo Elettra di Jennifer Saint, che mi chiama dalla vetrina. Non è, il titolo non era Clitennestra, era Elettra, però entro e lo prendo e scopro che si tratta appunto della riscrittura della versione, diciamo, rivisitata in senso femminile di Clitennestra. Elettra era la figlia di Clitennestra, quindi di tutta la storia e il dramone di Clitennestra, ma rivisto in forma femminile. Quindi dico, vabbè, è arrivato il momento di dare voce a Clitennestra, e lo stavo facendo per conto mio, in effetti. Poi si è verificata questo fatto di sostituire Violetta, per cui a quel punto ho detto Violetta in treno, mi sembra. Ah no, Vale, Valeri, eccoti qua. Per cui ho detto va bene, allora parlerò di Clitennestra e lo studio che sto proprio facendo ancora in questi giorni, che non è ancora completo, tra l'altro. Allora, vediamo prima chi è Clitennestra. È una figura mitologica, effettivamente, quindi non si è potuta verificare l'esistenza reale di Clitennestra, ma l'ambientazione, diciamo, il periodo nel quale si verifica tutta la storia che sto per raccontarvi è all'incirca il 1250 a.C. Allora, Clitennestra era la figlia del re di Sparta, sorella gemella di Elena, quella famosa che diede poi origine, che fu la causa della guerra di Troia. Clitennestra era sposata con il cugino, quindi era una principessa reale della famiglia reale di Sparta, che si sposò con Tantalo, che era cugino di Agamennone, Tantalo da cui ebbe un figlio. A un certo punto Agamennone le uccide il marito, le uccide il figlio e la violenta la obbliga a sposarlo, la sposa con la violenza. Lei ha 3 figli e una figlia con quest'uomo, scusate, 3 figlie femmine e un figlio con questo Agamennone, il fratello di Menelao che aveva sposato Elena, quindi Clitennestra ed Elena, 2 sorelle gemelle, Agamennone e Menelao, i loro 2 mariti, 2 fratelli. Menelao che poi diciamo, convincerà il fratello Agamennone, che era re di tutti i guerrieri greci, a mettere insieme l'esercito più grande che si fosse mai visto per partire e andare a riprendere Elena, che nel frattempo lo aveva mollato allegramente e se n'era andata a Troia con Paride, che era più bello e più giovane e sicuramente più affascinante. Quindi, cosa succede? Che Agamennone mette insieme questo enorme esercito per accompagnare e supportare il fratello Menelao per andare a Troia a riprendersi Elena. Rimane con tutto l'esercito sulla spiaggia aspettando il vento che non arriva per poter salpare in direzione di Troia. Il vento non arriva, gli dei non sono favorevoli a questa partenza perché chiedono un sacrificio. Il sacrificio è quello, gli dei pretendono che lui praticamente sacrifichi la sua figlia maggiore, Ifigenia. Con le buone è impossibile, perché la madre, Clitennestra, non l'avrebbe mai permesso. La madre vigilava, ovviamente aveva odiava questo marito già dall'inizio, perché già lei aveva già subito diverse violenze da parte sua, ma diciamo che andando avanti poi con gli anni si era resa conto di quanto brutale fosse quest'uomo. Questo era un guerriero, era un condottiero, era uno che viveva per fare la guerra, per massacrare. E quindi bisognava usare l'inganno per convincere Clitennestra ad abbassare la guardia in maniera da poter mettere le zampe su Ifigenia, la figlioletta di 14 anni. Allora entra in scena Odisseo, detto anche Ulisse. Odisseo, che era uno dei guerrieri dell'esercito greco di Agamennone, ordisce questo inganno, che poi è lo stesso Odisseo che ordirà l'inganno del cavallo di Troia. Lui era proprio un bastardo, così era capace di pensare a questi inganni tremendi. E Odisseo che cosa dice? Dice: noi diciamo a Clitennestra che tu hai destinato tua figlia a sposarsi con Achille, il grande guerriero, e quindi la facciamo venire qui con questa prospettiva. Ovviamente Clitennestra non è contenta, perché non era stato seguito l'iter, la procedura normale quando si prometteva una fanciulla in matrimonio. Oltretutto Ifigenia aveva solo 14 anni, Achille era un energumeno, era un guerriero, era il più grande di tutti i guerrieri della Grecia, quindi lei pensava alla sua figlioletta, alla sua bambina esile nelle mani di questo personaggio, e non era contenta per niente. Ma non poteva non obbedire al marito, perché erano i padri ovviamente che decidevano i matrimoni delle figlie, per cui parte con la figlia in un carro, tra l'altro Clitennestra incinta dell'ultimo figlio che nascerà Oreste quando Agamennone è già partito per la guerra, è già via, e parte per l'Aulide, dove sono parcheggiati, diciamo, i guerrieri, questo esercito enorme di 10.000 navi, in attesa di poter partire, in attesa del vento per poter partire. Quando arrivano Clitennestra e Ifigenia, finalmente vedono questo spiegamento di forze, Clitennestra non capisce, dice: ma qui non c'è nulla di pronto per una cerimonia. Ma insomma Odisseo ancora se la gira e se la rigira, Agamennone non si fa mai vedere, il padre non si fa mai vedere. E Odisseo dice: no, ma la cerimonia sarà per domani all'alba, quindi siate pronte, perché dopo noi partiamo per la guerra. E Clitennestra quasi quasi contenta del fatto che subito dopo il matrimonio Ulisse parta per la guerra, perché dice: così starà lontano un po' e intanto ci sarà modo per mia figlia di crescere un pochino, di farsi donna, insomma di essere quantomeno fisicamente, strutturalmente in grado di stare con un energumeno di questo tipo. Quindi dormono nella tenda con i soldati tutti intorno. Clitennestra è sempre più sospettosa. Non capisce come mai la stranezza di questa procedura. Non capisce come mai Agamennone non vada nella tenda con loro. Come mai non vada a prendere la figlia, a parlare con lei. Morale, alla mattina, all'alba, la figlia indossa l'abito nuziale e le due donne da sole, scortate dai soldati, si dirigono verso l'altare, ma l'altare non è pronto per una cerimonia nuziale, è pronto per un rito sacrificale. E nel momento in cui Clitennestra si rende conto dell'inganno, viene afferrata dalle guardie, trattenuta ferma, mentre Agamennone in una frazione di secondo prende la figlia, la agguanta e di fronte a tutti i soldati le taglia la gola. E parte senza degnarla più di uno sguardo, prendono e partono perché in quel momento il vento si alza, gli dèi hanno gradito il sacrificio, il vento si alza, loro partono per Troia, Sara sta già piangendo, stai già piangendo, ti vedo, e la, rimangono sulla sabbia, Clitennestra spezzata dal dolore, dall'incredulità, con la figlioletta morente tra le braccia. Non si sa come poi Clitennestra in qualche modo riesce a tornare alla reggia, lei era regina di Micene perché Agamennone era il re di Micene, quindi lei era la regina. Ritorna alla reggia, seppellisce Ifigenia e ha altre due figlie, le due figlie c'erano già, Crisotemi e Elettra, e poi nel frattempo partorisce Oreste, il bambinetto. Nei 10 anni, la guerra di Troia dura 10 anni, ci mettono 10 anni, questi adesso non entriamo nel merito della guerra di Troia perché è un'altra storia, ma lì praticamente alla fine, con questo inganno del cavallo, la storia la conoscete, praticamente i guerrieri greci si introducono con l'inganno e fanno una strage, ammazzano tutti, restano vive solamente due o tre donne della stirpe reale, tra cui Cassandra, che era una delle principesse di Troia, figlia di Priamo ed Ecuba, la famosa Cassandra, la sacerdotessa di Apollo, destinata ad avere le visioni, a vedere il futuro e a non essere creduta, che viene praticamente scelta da Agamennone come bottino di guerra, quindi diventa la concubina forzata di Agamennone, che alla fine della guerra se la carica sulla nave e riparte per Micene dopo 10 anni. Nel frattempo Clitennestra aveva governato Micene e aveva governato anche bene, e nessuno aveva nostalgia di Agamennone perché Clitennestra era una regina migliore. Ma Clitennestra vive covando rancore, covando odio nei confronti di quest'uomo e sperando soltanto che torni a casa vittorioso, perché lei vuole vendicarlo, vuole vendicare la figlia, vuole fare giustizia. Non riesce a togliersi dalla mente l'immagine della sua figlioletta adolescente sgozzata davanti ai soldati senza che lei avesse potuto fare nulla. Oltretutto si colpevolizza perché lei i sospetti li aveva, cioè sentiva dentro di sé che qualcosa non andava, ma non aveva potuto evitare tutto questo. Quindi nel frattempo Agamennone riesce a ritornare con i superstiti, perché ovviamente il massacro a Troia era stato da una parte e dall'altra, e si porta la concubina Cassandra nella reggia. Clitennestra, che nel frattempo aveva intrecciato una relazione con Egisto, che era cugino di Agamennone, il quale era stato cacciato dalla reggia dallo stesso Agamennone che aveva ucciso il padre di Egisto per poter usurpare il trono, per poter prendere il trono. Lì poi c'è tutta una storia di uccisioni tra figli, padri per il trono, non entro nel merito perché non è questo che ci interessa. Sta di fatto che Clitennestra si era messa a fianco questo ragazzo più giovane di lei, che era il cugino di Agamennone, che prende praticamente il trono, ma il regno è sempre nelle mani di lei, no? Lei è proprio una regina regnante a tutti gli effetti. Quando Agamennone ritorna a casa, lei finge di accoglierlo come un condottiero che ha vinto la guerra, insomma, con tutti gli onori, gli prepara un tranello, gli dà del vino drogato, gli dà una veste, gli fa indossare una veste che però lei ha cucito da tutte le parti in maniera che lui non riesca a tirar fuori le braccia, la testa, insomma, tra il vino drogato, il vestito chiuso da tutte le parti, quando praticamente lui si accorge delle intenzioni di Clitennestra, lei è già pronta, lascia e gliela cala diverse volte addosso fino a farlo a pezzi. Egisto in tutto questo se ne sta nascosto, quindi è lei che fa giustizia della sua figlioletta, della figlioletta che, nonostante siano passati 10 anni, lei non riesce a dimenticare, non riesce a liberarsi da questa rabbia, no? Da questo affronto, che si va a sommare a tutti gli altri affronti. C'è da dire che Agamennone ritornando praticamente in patria, l'avrebbe messa da parte, quindi avrebbe ricominciato a regnare lui e lei avrebbe dovuto ritornare nell'ombra dopo aver guidato una forte regione come l'Argolide, di cui Micene era la capitale, e avrebbe dovuto tollerare nella reggia, nel palazzo reale, la concubina. Quindi diciamo che Clitennestra è stata definita la cagna perché aveva un amante. Agamennone invece era perfettamente legittimato nel portarsi una concubina, bottino di guerra, nella casa dove viveva anche sua moglie, no? Come al solito, due pesi e due misure. Già questo è un motivo sufficiente per farsi due domande e dire: ma come? Hanno fatto la stessa cosa, però lei è diventata l'archetipo della moglie fenifraga e traditrice, mentre lui ha diritto ad avere questo premio perché lui è il grande condottiero e quindi ha diritto ad avere questa concubina. E questa visione è quella che si porta nel cuore Elettra, la terza figlia praticamente. Dovete praticamente immaginare che quando Agamennone partì, Elettra aveva 4-5 anni e Oreste non era ancora nato. Elettra non vede il padre mai, perché il padre sta via per 10 anni, ma Elettra sviluppa dentro di sé una sorta di attaccamento morboso nei confronti dell'immagine del padre, dell'idea di questo padre vigoroso, di questo padre eroico, che a tratti ha quasi della pulsione passionale, no? Quasi della pulsione erotica. Lei immagina le braccia di questo padre, il petto di questo padre, invidia Ifigenia, che è morta sul petto del padre, perché lei non riesce a pensare a niente di più bello, no? Che essere stretta dalle braccia del padre mentre muore. Quindi Elettra praticamente sviluppa una psicosi nei confronti, un odio feroce nei confronti della madre, che lei considera fenifraga e traditrice perché ha permesso che qualcun altro occupasse il trono di suo padre, e una passione malsana, diciamo, nei confronti di questo padre che tutto sommato poi lei non vede mai, perché lei cresce, diventa una giovinetta senza che il padre sia mai presente, invece la madre sì. E Oreste, che viene praticamente aizzato da Elettra, anche se Oreste non ha mai visto il padre perché è nato dopo che lui era partito, viene aizzato da Elettra per uccidere la madre, per commettere matricidio, per vendicare l'affronto subito dal padre. Quindi tutti gli affronti subiti dalla madre non esistono, ma bisogna vendicare la morte del padre, perché altrimenti lui non avrà mai pace nell'Ade, e quindi bisogna compiere il matricidio. E Elettra fa in modo che Oreste fugga, subito dopo l'uccisione di Agamennone, Oreste fugga dalla reggia e ritorni poi, una volta diventato giovanotto, perché era bambino, aveva 10 anni, ritorni anni dopo, una volta diventato giovanotto, per compiere questo ennesimo assassinio, no? Per uccidere la madre e vendicare il padre. Oreste non vuole, ha mille ripensamenti, non riesce a pensare di uccidere la madre, ma Elettra lo manipola, lo aizza, lo mette contro, gli dice: tu gli fa capire che non è un uomo se non fa questo, che il padre non avrà mai pace nell'Ade se lui non lo vendica. E Oreste insomma si fa mettere su dalla sorella e con un ennesimo inganno uccide la madre. Ecco, questa è la storia. Dopodiché quello che succede ad Elettra e ad Oreste in questo momento non ci interessa, perché diciamo, tutta la storia è costruita, il fulcro della storia è costruito intorno a Clitennestra e Ifigenia, nel senso che se Clitennestra non avesse deciso di vendicare Ifigenia, tutto sarebbe andato come andava normalmente a quei tempi, in cui il padre era padrone assoluto delle vite di tutte le donne della sua famiglia, no? Quindi probabilmente non ce la saremmo neanche mai ricordata Ifigenia, se non fosse accaduto che la madre abbia deciso di vendicarla, di vendicare la figlia femmina. Quindi una cosa che non si era mai vista prima, che non era mai stata fatta prima. Quindi queste due donne, madre e figlia, che un po' ricordano a livello speculare l'altra grande coppia madre-figlia della mitologia greca, che è Demetra e Core, no? Demetra e Persefone, però in questo caso Demetra è una dea, mentre Clitennestra è una regina, ma è una donna umana. Allora, tutto questo avvenimento è stato più o meno inquadrato dagli studiosi, dagli storici, dai mitografi intorno al 1250 a.C. Clitennestra è una figura che è stata ripresa tantissimo nelle tragedie, nei miti, è una figura che ha ispirato sempre molto gli autori di storie e gli autori di teatro. A partire dall'VIII secolo, la prima volta in cui se ne parla è nell'VIII secolo a.C. e lo fa Omero nell'Iliade. Lui è il primo che parla di questa donna, ovviamente trattandola come felifraga, assassina del marito, bla bla bla. Quindi siamo in epoca patriarcale, perciò quello che per lui era legittimo per lei non doveva essere neanche lontanamente pensabile. Poi parlano di Clitennestra nell'ordine Eschilo, i tre grandi tragediografi greci: Eschilo, Sofocle, Euripide, li avrete sicuramente sentiti nominare. Eschilo, che scrive la tragedia Agamennone nel 458 a.C., dove fa dire, con l'unica frase che in qualche modo giustifica l'azione di Clitennestra, Eschilo fa dire a lei: sì, questo è Agamennone, mio sposo, per questa mia mano e il cadavere e fu giustizia. Quindi suggerisce vagamente che Clitennestra abbia voluto fare giustizia, ma non una giustizia con la G maiuscola, una giustizia giusta, semplicemente una giustizia secondo lei. Poi abbiamo Sofocle che scrive l'Elettra, quindi prima Eschilo scrive l'Agamennone, Sofocle poi scrive l'Elettra nel 420 a.C., che viene rappresentata sempre in teatro. Euripide scrive l'Elettra ancora nel 416, poi scrive l'Ifigenia in Tauride nel 414, poi scrive l'Oreste nel 408 e poi Ifigenia in Aulide nel 405. Ifigenia in Aulide è dove lei viene ammazzata dal padre. Ifigenia in Tauride è una storia alternativa in cui ci si immagina che Atena all'ultimo momento, mossa a pietà, abbia sostituito Ifigenia con una cerva e che sia stata sacrificata la cerva al posto di Ifigenia, quindi Ifigenia poi se ne va in questa regione, appunto in Tauride, ma la madre non lo sa e non lo sa neanche il padre. Quindi Clitennestra, anche in quest'altra versione alternativa, rimane comunque convinta che sua figlia sia stata sgozzata dal padre per poter avere il vento favorevole per andare in guerra. Poi ne hanno parlato ancora Seneca in una tragedia che si intitola Agamennone e Livio Andronico, che addirittura ha scritto l'Egisto, la tragedia Egisto. Notate qualche cosa di strano in tutto questo? Non ce n'è una sola intitolata a lei col suo nome. È sempre lei la protagonista, ma non è mai nel titolo, non ce n'è neanche una di tutte queste che si intitoli Clitennestra. Perfino a Egisto hanno intitolato, che è una figura assolutamente minore, ma non, nessuna di queste è intitolata a lei. Questo secondo me è un segnale molto forte. Dovete pensare che nell'antica Grecia il popolo non andava a scuola, solo i figli dei ricchi, degli aristocratici, andavano a scuola, avevano il ginnasio. Il popolo imparava a teatro. Il teatro era la scuola dei poveri. Il popolo andava a teatro, vedeva in scena quello che si poteva fare, quello che non si poteva fare e quali erano le punizioni quando si faceva quello che non si sarebbe dovuto fare. Il procedimento era in quattro step: ubris, nemesis, matos e pathos e matos. Ubris era la colpa, la cosa che non si doveva fare veniva mostrata. Nemesis è la coscienza della colpa, il ricordo della colpa, la consapevolezza. Pathos è la sofferenza che sopraggiunge quando si ha consapevolezza di questa colpa e matos è l'insegnamento che se ne trae, no? Quindi diciamo che il popolo andava, vedeva sulla scena queste edificanti scenette e tornava a casa che aveva imparato una lezione. Qual è la lezione che imparava in questo caso? Che nessuna donna si poteva permettere di sindacare quello che faceva il marito. E già dal fatto che Clitennestra non è mai nei titoli delle tragedie che la riguardano, secondo me percepiamo un forte segnale di come andavano le cose. Quindi, fino alla prima volta che Clitennestra è nominata nel titolo di un'opera che la riguarda, è nel 1959 nel balletto di Martha Graham, di cui vi ho condiviso qualche scena e una foto. E Martha Graham è la prima che parla di Clitennestra in senso, non dico femminista, ma con una visione meno meno aggressiva, meno giudicante nei confronti delle donne. Per Martha Graham, che ovviamente si esprime in forma di ballo, ma sappiamo che la danza moderna è una danza di tipo genetico, non è l'entertainment del balletto classico, è una danza che vuole parlare di storia, di sociologia, di quello che accade, no? E quindi l'immagine di Clitennestra che ci offre Martha Graham è quello di una donna forte, di una donna guerriera che ha diritto alla giustizia, che si fa giustizia e che ne ha diritto. E poi avete visto, non so se avete visto nella fotografia, che la sua Clitennestra porta sul capo due mezze lune intrecciate, no? Quindi proprio, ed è vestita di rosso, quindi due simboli fortemente femminili. E poi nel 1965 un tale Ildebrando Pizzetti, che era un musicista, scrive un'opera che si intitola, un'opera lirica che si intitola Clitennestra, ma ancora una volta lì viene trattata come la sordida peccatrice, come l'assassina, la femminifraga, eccetera. Quindi il modo in cui lei viene definita a partire dall'VIII secolo fino a 50 anni fa, se 1965, diciamo 60 anni fa, è cagna, vipera, assassina del marito. Cagna, vipera è proprio la traduzione letterale delle due parole greche che vengono sempre associate a lei. Cagna perché ha avuto questo amante, Egisto, e vipera perché uccide il marito con l'inganno. Mentre Agamennone è sempre il potente condottiero. Dopo tutto quello che le ha fatto, lui rimane, non viene mai giudicato, rimane sempre il potente guerriero, il potente condottiero che è riuscito a distruggere Troia, che è riuscito ad avere ragione di questa città famosa per le sue mura, famosa per essere assolutamente inespugnabile. Ecco, una delle cose che ci lascia veramente allibiti di tutta questa storia è il fatto che i soldati non abbiano mosso un dito nel vedere che Agamennone stava per sgozzare la figlia, anzi erano, come dire, compiaciuti e gasati, se mi passate questa parola, gasati per il fatto che il loro grande re, il loro grande condottiero stava finalmente offrendo agli dei una giusta vittima sacrificale che avrebbe loro consentito di finalmente di salpare dopo settimane di attesa di un vento che non arrivava per andare a compiere delle carneficine. Quindi questa è l'immagine che ci arriva dell'universo maschile. E se pensate che il teatro era la scuola dove il popolo andava a imparare, questa è la lezione che il popolo aveva, cioè che Clitennestra, con tutto quello che ha dovuto passare da Agamennone, il primo marito, il figlio ucciso, poi Ifigenia, poi la concubina, poi il fatto che ha dovuto farsi da parte per riaccogliere lui quando lui è tornato, lei è la cagna e la vipera, mentre Agamennone è il grande condottiero. Quindi siamo assolutamente nell'indottrinamento patriarcale all'ennesima potenza, perché quello che succedeva a teatro non era come per noi che andiamo a teatro, poi andiamo a mangiarci una pizza, arrivederci e grazie. Il teatro per i greci era la scuola, era quello che gli diceva come si dovevano comportare nella loro vita di tutti i giorni. Quindi questo è, vi ricordate quando vi dicevo, vi dimostrerò di come il teatro veniva utilizzato nel patriarcato per indottrinare, no, le persone. E questa storia così truce ha questo scopo di mostrare come le donne non si debbano ribellare a quello che fanno gli uomini, anche alle cose più turpi. Questi personaggi sono inventati, abbiamo detto, perché qualche archeologo sostiene di aver trovato Troia, poi di aver trovato la tomba di Agamennone, poi di aver trovato la tomba di Clitennestra, ma non c'è nessuna sicurezza riguardo a questo. Però io mi sono chiesta, e questa è la nostra, diciamo, il nostro contributo come Scuola delle Donne, mi sono chiesta, ma perché inventare una storia così truce? Cosa c'era dietro? Ma possibile che ci si sia veramente, ci si sia dovuti immaginare una cosa così drammatica come un padre che sgozza la figlia di fronte alla madre? E io mi sono data questa risposta. Omero ha vissuto nell'VIII secolo a.C. Agamennone era re di Micene. Vi ricorderete che la cultura micenea è quella che porta la cultura guerrafondaia patriarcale in sostituzione della cultura minoica che c'era prima, che era la cultura matriarcale, no? Che c'era in Grecia prima di quella micenea. Abbiamo tenuto delle classi anche l'anno scorso su questo. Quindi la cultura minoica, che era originaria in Creta e che era la cultura della dea, della grande madre, e avrete sicuramente visto che a Creta ancora nei musei ci sono le statuette, no? le statuette che sono state scavate con l'immagine, con l'effigie della grande madre, è stata spazzata via da questa cultura micenea di origine indoeuropea. E qui ovviamente abbiamo tutto il discorso Maria Vimbutas, indoeuropei che arrivano, che travolgono la cultura dell'antica Europa. Questi greci al comando di Agamennone erano proprio questi indoeuropei che portano la cultura della guerra, dello stupro, della violenza, in sostituzione della cultura minoica che c'era prima della grande madre. E il tutto avviene, cioè questo scambio avviene solo qualche secolo prima che Omero scrivesse l'Iliade, che parlasse per la prima volta di Clitennestra. Quindi io ho pensato, forse Omero aveva memoria di questo fatto, di questo avvicendarsi di una cultura patriarcale guerresca sulla cultura matriarcale pacifica. E la storia di Clitennestra, Agamennone e Ifigenia in qualche modo è simbolica di questo passaggio. Guardate, Ifigenia significa il significato del nome Ifigenia significa di forte stirpe, generata da una stirpe forte, quindi una donna forte. Agamennone significa grande condottiero, grande uomo, grande eroe. Quindi che cosa succede? Che il grande condottiero uccide, sgozza la donna forte. Ifigenia potrebbe, a mio avviso, essere proprio l'emblema della cultura matrifocale, della donna forte, della cultura matrifocale e matrilineare minoica che c'era prima, dove le donne erano forti, erano rispettate, e lo fa di fronte alla madre, no? Quindi praticamente il messaggio, il passaggio è togliere le figlie alle madri e obbligare le madri a non potersi a non fare nulla, perché c'era l'esercito tra Clitennestra e sua figlia. Quindi è il passaggio ad un tipo di società dove le donne non hanno potere, dove non possono fare nulla, dove i padri hanno diritto di vita e di morte sui figli. Le madri assistono impotenti alla distruzione delle figlie, a loro è negato il diritto alla giustizia, perché perfino figli e figli si rivoltano contro di loro. Elettra e Oreste alla fine non hanno pietà per la madre che comunque li ha cresciuti e decidono di vendicare un padre che non hanno mai visto. Quindi questo è un altro simbolo fortemente patriarcale. Decidono di vendicare questo grande eroe di cui avevano solo sentito parlare, mentre la madre era una figura che era rimasta lì con loro, che li aveva cresciuti. Ma nella cultura patriarcale quello che vale è vendicare l'onore del padre, quindi Oreste ed Elettra uccidono la mamma. Ecco, a questo punto, mentre studiavo, perché prendevo appunti mentre studiavo, mentre preparavo, mi è venuto un paragone da fare con Giuditta Oloferne. Vi ricordate che Giuditta, donna biblica, taglia la testa di Oloferne, generale dell'esercito assiro di Nabucodonosor, per evitare che invadesse la Palestina. Quindi Giuditta anche compie un atto efferato nei confronti di un uomo, gli taglia la testa, Giuditta non viene giudicata come viene giudicata Clitennestra. Perché, mi sono chiesta io? Non sarà perché Giuditta è una donna biblica? Non sarà perché in sostanza Oloferne rappresentava una minaccia per tutto il popolo della Palestina, per tutto il popolo ebraico, mentre Agamennone rappresenta una minaccia solamente per Clitennestra? Ma non può essere questo, perché Agamennone non era un re amato, Agamennone era un re crudele, era un re sanguinario, tant'è vero che Clitennestra temeva che potesse ammazzargli anche le altre figlie, cioè non si fidava assolutamente più di suo marito. Quindi mi sono risposta che probabilmente il fatto che Giuditta non viene, nonostante abbia compiuto lo stesso atto, non viene giudicata nello stesso modo, è perché Giuditta è una donna biblica, è un'eroina biblica. Quindi le donne della Bibbia sono comunque riscattate per il semplice fatto che appartengono a quel contesto, no? Mentre Clitennestra appartiene a un contesto pagano, un ambito pagano, quindi è cagna e vipera. Bachofen in effetti ha suffragare questa teoria che la storia di Clitennestra possa essere stata inventata per trasformare, diciamo, in una cosa che si potesse vedere a teatro, in un'opera teatrale, o che si potesse memorizzare cantandola, perché le opere di Omero venivano raccontate, no, dai cantastorie, e venivano memorizzate. Diciamo che a suffragio di questa idea che ho avuto, poi ho trovato che Bachofen, ve lo ricordate, l'autore di quel grande studio sui matriarcati, di cui anche abbiamo fatto, ho fatto un paio di estati fa, nell'estate scorsa, da Bachofen a Maria Gimbutas, il docuvideo, vi ricordate? Nel suo lavoro sul matriarcato è proprio Bachofen che associa la vicenda di Clitennestra al passaggio storico tra il matriarcato di cui lei è rappresentante, perché lei è una regina che regna per 10 anni, e il patriarcato. Quindi potrebbe effettivamente essere stata inventata una storia così cruenta per rappresentare in forma drammaturgica un evento storico che è stato altrettanto sanguinoso, perché di certo, come sappiamo, gli indoeuropei non sono arrivati dicendo: scusate, per favore, vi fate da parte che adesso ci siamo qua noi, e chiaramente hanno sterminato tutto quello che potevano sterminare, perlomeno la prima parte che ha subito la prima onda d'urto, cioè dalla la Romania, la Bulgaria, scendendo la Grecia fino a Creta, è stata quella, diciamo, più distrutta, più passata attraverso il sangue. Poi, spostandoci invece verso ovest, lì poi le due culture invece si sono miscelate, quella matriarcale dell'antica Europa e quella patriarcale che veniva dalle piane del Caucaso e della Mongolia, si sono miscelate e hanno dato origine a quella civiltà che noi chiamiamo dei Celti, no? Che è stata proprio il prodotto della fusione di questi due. Ma la prima, diciamo che la prima fascia, quella dove proprio hanno fatto irruzione questi indoeuropei, è stata letteralmente massacrata. Ecco. In molte versioni patriarcali Clitennestra, si sostiene che Clitennestra abbia ucciso il marito non per vendicare la figlia, ma semplicemente per potersi tenere il trono, per poter continuare a regnare accanto al suo amante indisturbata. Ovviamente questa è un'ennesima versione patriarcale, perché è impossibile che una madre che assiste allo sgozzamento della figlia possa dimenticarsene anche solo per un istante, anche se bisogna dire che Clitennestra agisce in una maniera diversa da altre donne che magari hanno assistito alla stessa scena. Anziché rassegnarsi, lei invece cova vendette, alla fine è lei che cala l'ascia addosso al marito. Tra l'altro mi sta venendo in mente adesso che l'ascia è anche un simbolo, no? Perché pensiamo all'Abris, l'ascia bipenne, avete in mente, no? Questa forma, l'ascia bipenne, è il simbolo della doppia vulva, no? Quindi anche la scelta dell'arma, lei non usa una spada, un coltello, usa un'ascia, e non riusciva quasi neanche a sollevarla, tanto era pesante, ma l'ascia è il simbolo della doppia vulva, il labris, ed è un simbolo antico, della cultura matrifocale, lo aveva trovato Maria Gimbutas inciso sulle ceramiche, se vi ricordate, no? Ecco, oggi, negli ultimi anni, diciamo, si assiste a una restituzione finalmente di questa grande figura di donna, e questa è la parte che mi piace di più, perché un primo step, diciamo, della restituzione è stato quello proprio dell'atto unico di Alma D'Addario, Clitennestra e il processo, che è del 2020, e in questa opera Alma D'Addario mette in risalto l'affronto che Clitennestra deve subire di essere messa da parte quando Agamennone ritorna, dopo che lei ha regnato e ha regnato bene per 10 anni, e non solo l'affronto di dover accogliere la sua concubina sotto il suo stesso tetto. Quindi questo, che per quelle di voi che si sono guardate l'atto unico, è un po' diciamo il riscatto che Alma D'Addario offre a Clitennestra, no? Questo affronto, era una donna orgogliosa, era una principessa di stirpe reale, era la sorella gemella di Elena, era una principessa di Sparta, non poteva Clitennestra passare sopra a questi affronti, no? Quindi nella versione di Alma D'Addario praticamente Clitennestra uccide per vendicare i suoi affronti personali, che già comunque è, diciamo, una versione nuova rispetto a quella che ci dava il patriarcato, che ci diceva che Clitennestra ha ucciso per tenersi il trono e goderselo con l'amante. C'è una grossissima differenza. E nella versione di Alma D'Addario Clitennestra uccide anche Cassandra per lo stesso motivo, no? Sempre per vendicarsi di questo affronto. Poi c'è il secondo step invece, che è questo libro che, cioè, più che dire che l'ho trovato io, è stato lui che ha trovato me, questa versione di Jennifer Saint che si intitola Elettra, di nuovo non si intitola Clitennestra, anche se è sempre Clitennestra la protagonista. Questo si intitola Elettra, la figlia, quindi, ed è del 2022, e qua c'è un totale riscatto di Clitennestra, perché in questa versione Clitennestra uccide Agamennone esclusivamente per vendicare la figlia Ifigenia, perché per 10 anni lei non è riuscita a pensare ad altro che all'immagine della figlia sgozzata, e quindi lei vuole fare giustizia, e questo è l'unico motivo per cui uccide, e uccide Agamennone. Poi è vero che uccide anche Cassandra, perché la storia è questa, ma nella versione di Jennifer, questa che io chiamo la seconda restituzione, in realtà c'è una sorta di complicità tra le due donne, tra Clitennestra e Cassandra, quando si incontrano, quando Clitennestra dice alle donne della reggia di trattare Cassandra con i dovuti onori, perché anche lei è una principessa reale, quindi di offrirle tutto quello di cui può avere bisogno, di trattarla bene. Ma Cassandra, che a sua volta ha visto distrutta la sua famiglia, la sua città, è stata violentata, lei oltretutto era vergine, Cassandra, perché era sacerdotessa al Tempio di Apollo, quindi anche lei è stata violentata chiaramente da Agamennone, che di certo non l'ha fatta sua concubina semplicemente per portarsela a guardare il tramonto, quindi c'è questa parte anche violenta di Agamennone nei confronti di Cassandra. Cassandra è un'altra donna spezzata dalla violenza maschile, che non ha più nulla e non vuole, non ha motivo per vivere, nel senso che Clitennestra ha ancora i suoi figli e ancora il suo regno, Cassandra non ha più nulla. Quindi quando Clitennestra la va a trovare, Cassandra le chiede di ucciderla, ed è lei che guida quasi quasi il pugnale per potersi togliere dal mondo. Quindi la versione di Jennifer Saint è che Clitennestra uccide Cassandra per pietà, perché Cassandra davvero non ha più motivo di vivere, non vuole più, ha completamente perso ogni possibilità di recuperare una ragione per stare al mondo. Quindi c'è questa grossa empatia tra le due principesse, che entrambe hanno subito questa grossa violenza. Ecco, infine Jennifer Saint in questo Elettra descrive Elettra come una ragazza disturbata, effettivamente, come una ragazza che ha degli squilibri, che ha queste pulsioni che sconfinano veramente nel passionale, nell'erotico nei confronti del padre, che non riesce a fare un solo discorso logico, mentre la madre viene descritta, Clitennestra viene descritta come una donna che ha tutte le ragioni e tutto il diritto di vendicarsi, quindi piena empatia, piena giustificazione nei confronti di Clitennestra. Le frasi che vengono messe in bocca a Clitennestra sono frasi lucide, sono frasi logiche. Qui lei, l'autrice, suggerisce che Clitennestra avesse paura addirittura che Agamennone potesse ammazzare anche Elettra ed Oreste, che erano ancora nella reggia. Crisotemi, l'altra figlia, no, era andata, si era sposata, quindi era fuori pericolo. Ma praticamente quando Agamennone torna, Clitennestra fa rinchiudere Elettra perché ha paura che abbia subodorato qualcosa e che la voglia bloccare, perché Elettra ha questo invasamento, ha questa passione per il padre, ma Clitennestra vuole salvare Elettra anche da se stessa e dalla possibilità che il padre la uccida. Quindi da un eventuale altro sacrificio. Perciò nella versione di Jennifer Saint Elettra non è l'eroina che supporta e sostiene il fratello nel vendicare il padre, ma è una ragazza veramente disturbata che fa delle scelte assolutamente discutibili, che poi se ne va dalla reggia perché odia la madre di un odio impossibile, a scapito, cioè rispetto a un padre che lei non ha mai visto, che non vede da 10 anni, ha questo odio profondo per la madre. E dopo che Agamennone viene ucciso, lei praticamente se ne va dalla reggia e va a vivere in una capanna sulle montagne, tutta arruffata, non si lava più, insomma quasi una pazza, e tutti i giorni va sulla tomba del padre lasciando una ciocca di cappelli, facendo offerte tutti i giorni nell'attesa che il fratello Oreste diventi un uomo e sia pronto per tornare. Quindi oltre ai 10 anni che ha aspettato il padre, ci sono poi tutti gli altri anni in cui aspetta il fratello. Quindi nel frattempo tutta questa cosa che macina Elettra non svanisce, non diminuisce, ma aumenta sempre di più, tant'è vero che quando Oreste finalmente torna, Elettra lo aveva fatto scappare per paura che Egisto potesse farlo fuori per evitare di avere un legittimo pretendente al trono, quindi Elettra fa in modo che il fratellino di 10 anni vada con la zia, con la sorella di suo padre, e deve aspettare che il bambino diventi un adulto. Quindi ci sono ancora tutti questi anni in cui Elettra macina, cova questo rancore, ma Oreste quando torna non ha voglia di farla, di compiere quest'azione, non ne sente il desiderio, è sempre lei che lo incita. Ecco, ancora una volta il titolo non è Clitennestra, ed è interessante notare, questa è proprio assolutamente una mia illazione, che nei ringraziamenti finali l'autrice Jennifer Saint ringrazia la sua agente per la scelta del titolo. Io li leggo sempre i ringraziamenti dei libri, un po' per deformazione professionale, devo dire che questo dettaglio mi ha colpito, perché la scelta del titolo Elettra, cioè che senso ha? Come mai per l'ennesima volta non è stato dato il titolo Clitennestra a un romanzo che parla di lei, no? Per cui ho pensato che ancora una volta ci fosse l'egregora, la forma pensiero che Clitennestra si porta dietro, no? Che avrebbe potuto in qualche modo spostare l'attenzione o far tornare l'immagine di questa cagna vipera, come viene chiamata, e quindi rendere commercialmente poco interessante il romanzo, insomma, perché la parola Clitennestra evoca in qualche modo questa donna terribile, l'assassina del marito, mentre l'immagine che Jennifer Saint ci dà è quella di una donna che fa giustizia, di un re, di un re che ha bevuto tanto di quel sangue durante tutta la sua vita. Quindi è una Clitennestra diversa quella che ci presenta Jennifer Saint, e quindi è stato scelto un titolo che non interferisse probabilmente con questa immagine che lei voleva dare, che non portasse ad avere un orizzonte d'attesa che potesse in qualche modo interferire con le vendite del libro. Ecco, Ecco, io vi ho raccontato quello che vi volevo raccontare. Avete capito come dicevo quando scrivevo il post l'altro giorno, prima dei social, prima di YouTube, prima della televisione, prima dei pulpiti, si usava il teatro per addestrare, per passare questa cultura patriarcale, perché le emozioni che venivano vissute a teatro dal popolo che andava a vedere queste tragedie erano fortissime e, come sappiamo, l'emozione passa attraverso l'acqua, quindi diventa un imprinting, diventa proprio una programmazione al comportamento e alla reazione emotiva. Quindi l'immagine di questa donna che, pur avendo diritto ad essere una giustiziera, uccide il marito, doveva diventare assolutamente l'emblema del tabù, cosa assolutamente non si può fare, perché altrimenti diventi questo, diventi la cagna e la vipera. Ecco, io mi fermo qua. Ho sentito veramente tanto questo lavoro, ho desiderato farlo. Credo che Clitennestra sia l'immagine di tante donne che hanno subito tanti abusi, tante ingiustizie, e Clitennestra, secondo me, in questo momento è una figura da rivalutare, perché Clitennestra è la donna che si fa giustizia, è la donna che non subisce, non è la Penelope che sta a casa ad aspettare che Ulisse, dopo essersi girato tutte le isole del Mediterraneo, essersi accoppiato con tutte le ninfe, le dee e le maghe che trovava sul suo cammino, torni a casa e lei intanto è lì, bella, tranquilla, che tesse e disfa la tela. Clitennestra è una donna che reagisce, è una regina, una donna forte. Quindi in questo momento, soprattutto pensando all'uccisione delle donne che continuamente avvengono, a tutti questi femminicidi che continuamente avvengono, io credo che rievocare dentro di noi questo archetipo, riportarlo in manifestazione come non tanto come l'azione, perché chiaramente rispondere alla violenza con la violenza non è sicuramente quello che chiediamo di fare, ma il trasformare dentro di noi l'addestramento a subire, l'addestramento a non fiatare, con invece la forza per reagire, la forza per chiedere, per fare giustizia, anche se con altri mezzi, chiaramente non con l'ascia, ci sono altri mezzi, comunque per pretendere e chiedere giustizia. E io credo che tutto parta dal recuperare l'orgoglio di noi stesse, la nostra immagine interiore, la dignità di noi stesse, perché è quella la prima cosa che fa sì che nessuno possa farci degli abusi, che nessuno possa farci delle violenze, avere dentro di noi l'idea che siamo intoccabili, che nessuno ha il diritto di farci del male.